c'è chi mi fa da bilissi un capo mi anche guarda un capo però guarda non aveva visto né produzione, essendo il mio figlio curato, diciamo, non ha prodotto né prigione, ne ha avuto nessuno, ma per questo gioco di genere che ha avuto l'abbia assistito. In questa maniera l'abbia assistito, non me ne era assistito nulla, tanto la vita è già rovinata, dove ti va a funzionare, non va a fare. No, non va a fare tutto. Intanto, infatti, a gente così non li fanno niente. Anzi, i carcerati che hanno il buon carriera gli date le buone ragioni. No, ci sono certi che non la ragionano così, già. Sono certi che buone cura, buone fare, mille prezzi si possono fare. Migliaia, però si ritocchi le cose, quando si tratta di ragazzine e cose non gradiscono molti, perché se non c'è il con una luce manco guarda da tutti. Si fa il tondino quando fa queste cose. Ma, molti guarda, saranno tutti delinquenti di tutto il mondo perché hanno rubato, hanno fatto. Però su queste cose sono molto delicate. Vabbè. Ma mi sembra ovvio. Ma se una ragazza di 15 anni, ma dice che lui li faceva la corte da un bel tempo e lei non diceva nulla. Già fa, che sono interessante, io. La guria tutti le cose, compreso. O mossa, o viva la guria. Certo. Lui era fratello del marito. No, forse della sorella, era il marito della sorella, ho capito. Che sorella, miserabile. Miserabile davvero. Ma tu cosa pensi che lo sapesse che aveva ammazzato quella lì, la sorella? Grazie, no. Uno come ti va a camuffare una cosa del genere? Io sarei, a me mi verrebbe l'affanno, boh, non fai una cosa del genere, io lo capisci subito. Ma manca a pensare, ma manca a pensare già, manca a pensare, soprattutto quando uno sta piccolo, certo, uno non lo pensa neanche, uno pensa anche di proteggerla. Beh, si è protettivo anche con gli altri ragazzi della loro età, eccetera, eccetera, non è, se uno non è un animale così, è normale che si è protettivo anche con quelli che non sono tuoi figli. Certo, sì, sì, anzi lui zio dovrebbe proteggere, dovrebbe fare la padre anche, non fare la cosa così, come casa, non so manco come definirlo. Sono cose proprio, manco gli animali le fanno, questo è proprio una bestia di chi si risalta la brutta. Luca, ma è il fantasma. Te lo dico io, ma non me ne era funzionato a me, no, di nessuno proprio, ma cosa vuol dire, zero di porco zero proprio. E adesso come lo mettono dentro ce ne la fanno se lui si è. Scappa, ma allora sai che non vuol fare che non sono funzionato, ma lo prendo in isolamento a pensare, invece qui si rende qua che si pigli un bel giusto, era manco. Io dico che se n'anda a coso, Barcollette. Anche là. Chiaro, se non è che mi faccia neppure un altro giorno, non è che lo massacrete, ma guarda, la mia lamenta, perché se si carcerate, fanno di come a capo in questo momento, solo come se lo da lontano. Lo so, so. Poi dalla faccia si vede che ho mente in cacchio, no, non mi sembra una persona normale. Dalla faccia sembra una persona proprio di quelle esaurite, tipo esaurito. Non bisogna fare qualcosa del genere, allora uno lo uccide, lui sta scemo come un seale, basta, non guarda, bastardo. Ma tu forse non l'hai visto, ma una volta l'hanno intervistata, si è messo a piangere, ha detto povera mia nipote, chissà che fine ha fatto, dove sarà, c'è un cabinino, dalla fondazione della camera. Ma quello era esso, un prodotto disgraziato che non è altro. Ma che vuol fare, lo preso? Ho condiviso un link su Facebook, guarda che c'è anche nel mio profilo, su Volette. È commentato, no? La fa chiamare bastardo. Ma ho commentato anche io, non l'ho visto. No, no, solo arriva la notifica. E comunque è inutile che si dica, che si faccia, tanto. Bastardo tanto l'ha fatto già. Cosa aveva? Questa gente davvero ci vuole la pena di morte, perché io non sono, sono contrario alla pena di morte, ma quando c'è una sicurezza così, che lo te lo dice lui, che è stato lui, la pena di morte ci vuole. Ma infatti, peggio, avrei fatto suo figlio, guarda già, avrei, boh, l'avrei fatto suo figlio, veramente, bruciata a cannello, avrei. Cazzo lui è necrofilo, pedofilo, perché è una ragazzina di 15 anni, è assassino. Miserabile, cazzo. Ma tu parli con una bestia di 15 anni? Ammazzi tu, ma loro sicuramente quando era piccolo gli avevano fatto qualcosa già, capito? Ecco perché si è comportato in quel modo lì. Ah sì, dico, ma cos'era? Il fratello? La madre? Ha fatto la ventale? Era il cognato della madre. Cognato della madre ha fatto la ventale? E il padre? Fratello della sorella. Ah, il fratello della sorella! Ma il fratello, il marito della sorella della sorella della mamma di Sara. E il padre cosa dice? Ma il padre io non l'ho sentito per niente, praticamente dicono che la madre adesso si è rintanata in casa, vuole riposare e basta, che non se la sente manco di parlare. Ora si fossero anche separati, non lo so, non ne parlo del padre. Ma un casino è già. Un casino nero. Appidati a una bambina di 15 anni. Ma se tu fai un esempio, stava appendo una ragazzina di 7 anni, 8 anni. Mia figlia quando mi dice papà posso andare a dormire da un'amica, sa no, non ci vai, ma perché? Che io il letto lo voglio vedere occupato, se io vedo il letto vuoto sto col pensiero tutta la notte, non riesco a dormire. Tu la mia di 8 anni si arrangia già, certo che sempre uno che li riguarda glielo rinviare. 18 anni ce li ha già Luca, però finché in casa sta le regole di casa mia. Ah, io maggiorenne tua figlia già. E allora? Cacchio. Però c'è già 18 anni. Però non vuol dire quello lì. È il modo di pensare che abbiamo noi, le regole che ci sono in casa devo rispettarle, non è che se io le dico così e così e basta. Adesso sta 3 settimane a casa in punizione perché ha chiuso il telefono alla madre in faccia perché stava dicendo di tornare a casa, sabato voleva restare di più in giro, ti ha chiuso il telefono in faccia, adesso sta 3 settimane e 3 sabati senza uscire. Solo perché si è incazzato, ti ha chiuso il telefono. Se troppo larghi, poi poco hai. Questa cos'è Bianca? Vabbè. Adesso è a casa tua, adesso deve rispettare le regole, normale. Poi, quando sarà? Riparti solo, allora la cosa accade, fidanzate almeno. Mi piacerà, ragazzi. Ma non è che il ragazzo è a casa adesso per dire. Non è che gli viene a casa tutto quanto, non c'è problema. Non è quello lì. Il fatto che a me mi piace vederla sotto gli occhi, io puoi dire se va a ballare vado io a prenderla di notte, che siano le 2, che siano le 3, che sia mezzanotte, ci vado sempre, capito? Sono andato anche alle 3 di mattina a prenderla, non mi fido a farla andare con gli altri in macchina. Non è già, vabbè. Quando te si trova in giro dopo, per carità. Fai bene, vabbè, tu sei giù, non va a far non so, buio. E poi sai cosa è anche già, può capitare che la persona è brava, no? Per esempio, il caso tuo, sai che, vedi che non succeda mai, che stavo con la tua figlia, ti dicono, cazzo, ma io sei cattivo quello, capito? Non fare le cose che non devi fare. Ma è così, poi già, poi stanno su tutti i uscimi. E lo so, ma bisogna seguire i figli, secondo me è così. Poi magari sarò anche esagerato, non lo so, però io la sua libertà la lascio, perché anche Antonio lo sa come siamo insieme, molte volte andiamo a prenderla insieme, ma io non gli tolgo nulla, se deve andare a ballare va a ballare, se deve andare a cantare al karaoke va al karaoke, però io voglio sapere dove va, perché poi a quell'ora lì devo andare io a ritirarlo. Vabbè, fai bene, fai male. Ma guarda tu, dai che mi ribogo questo pantalone, mi ribogo. Stamattina un freddo, perlomeno senza maglietta, mutande, c'è un freddo, guarda. Una mazza a capisa mia, ora per mettermi una maglietta. Già è successo anche a me, perché poi la mattina presto si sente un bel freddo. Adesso mi stiamo arrancando ancora col lenzuolo, ma tra poco la cubita vivo con il vento. Me lo dico a mia moglie, metti la coperta, io il pigiamino me lo sto già mettendo. No, io un lenzuolo e basta, perché con il mio alto, io mi alzo molto presto la mattina. Dipende da quel tipo di influenza, a che ora mi sveglia. E basta chiuderlo in cucina come facciamo noi. A me non mi sveglia nessuno. Titti lo sa che deve stare in cucina con la porta chiusa a chiave, così non esce. E io fermo tranquillo, poi allora che dice di alzare, mi alzo, come mi alzo, fa miau, come dire ciao. No, lei a mamma non mi piace, voglio che lui vada in giro. E vabbè, diverte. A volte di solito me ne sveglia alle 5, alle 6 e mezza, però meglio oggi, perché vuole da mangiare, capito? Allora comincia a farsi le feste, eccetera, eccetera. Io me ne alzo molto volentieri, glielo do. No, non mi interessa a me. E poi, siccome io non mi si torna a coricare, non ho problemi. No, anche io lì ho dato delle abitudini, l'ho educato come ho voluto io, anche se il gatto è molto autonomo, gli piace fare quello che vuole lui, però sono riuscito a educarlo in una maniera che lui sa, non si lamenta se cucina perché lui c'è la veranda grande, esce fuori, se vuole uscire va, mangia, gira, ne ha di spazio. Ma non è quello lì, non è perché Titti c'aveva l'abitudine quando era piccolo di venire sul letto e rimettersi sotto le coperte. La mattina ti alzavi e ti trovavi sotto le coperte con noi. come ne ho provato le scommesse, da spacca a mezzo già, comincia a farti la spesa e il rugato. Allora io mi alzo, vado e glielo do. Allora me ne alziere, ci metto a spesa. Ma non bisticciano per mangiare? No, assolutamente no. Te lo metto separato. Ah, non glielo metti tutti quanti nella stessa ciotola? Che tipo? Uno dalla parte e uno dall'altra. No, perché poi lei non ci fa. È molto, molto educata. Se vede lui mangiato, no, non lo disturba. Invece è un po' gareggio di ora. Più l'ovvio. Ma neanche se dopo si fa di abbrughi si cessi. No. Diciamo che anche Titti c'è il fatto che lasciamo un po' pelo e se dovessi lasciarlo almeno tutte le stanze non sarebbe una, la stanza da stare sempre aspirando, ma sarebbe loro. Tutte le stanze piene di pelo, capito? È un casino. Perché poi lo sai cosa fa, si prende la roba, se la palpa. Invece ella si è attaccata ai calzettini e con lui. Sì, già, sta un attimo, ho sposto il mobile, basta. Ma sai cosa fa? Quando stiamo a lavorare vado in bagno, no, metto tutta la roba a lavoro, le calze dentro le scarpe, se la notte mi alzo, cazzo, lo trovo con la calza via. E se la stava tutta palpando con le zampe. Dal giorno ho cominciato, devo fare la ricerca la mattina quando devo mettere le calze. L'altra volta ha buttato la maglietta, c'era che si è messa tutta quanta a bruciarsi, a palpare la mamma. Mi piace di ascoltare, è lì, si è messa vicino e di ascoltare. Io dovevo essere svegliato a qualche parte. Ma grazie hai a tu. Grazie hai. Allora. Uno. Due. Un maschio e una femmina, e vabbè, uno è il nostro, uno è di mia sorella. Oia, così no? E anche lui è del furba, sulle di papà, non mi sta ascoltando adesso, non si è girata. Non è lui, eh? Oia, le cose che combina col cane, le cose allucinanti. E dopo che sta meglio di loro, mangiano, bevono, dormono, non travagliano, così sarebbe bella la vita. Eh sì. Non paga niente, era al caldo, al fresco, e via. La vita dell'animale, se è fortunato, ci sono anche quelli randaggi, dai, che sono poveracci in strada, no? Se è fortunato l'animale sta bene, se capita una famiglia che viene accudito. Sì, ma infatti, non tutti gli animali sono fortunati, poi c'è quello che... Comunque, ci sono anche, diciamo, i mettici che sono molto fortunati, che trovano qualcuno che possono... lo porta a casa magari, sei in campagna, casettina, capito? E vabbè, adesso lui è qua rimane, finché campa. C'era un pezzo che la volevi dare, te lo dico di che te, ma cosa la dai? No, ma io non mi ha dato, c'è la mamma che era così, dalla, se lo sai già, sai che molte volte magari riesco a portarla fuori, ecco cosa è. E vabbè, Luca, che cosa costa sta? Non so, il cane se troppo è così. E magari si è affezionata, così è. Ho la tua canetta. Perché così dopo si affeziona, no, non ce la posso mandare via. Sono 2 anni. E com'è che sia un riscaldo oramai? Ma è così che capita. Animale come si chiede di riscaldo. Vabbè. Scavacaba! non ci ha messo un po' troppo. E non stavo mangiando soltanto, stavo facendo altra cosa. Gabba, gabba. E oggi che la ti tocca più, primo o secondo? Secondo. Il primo a tavola, a pranzo. Ok. Lucrezia, ripresi, quanti anni ce l'hai a lui? 2 anni. Aspetta. Affanculo. Oh. Mamma mia, gara. Aspetta. Oh. Ecco. 2 anni già. Attenzione, radio vela, senti qua, cara. Forse chiaro qua. No, chiaro. 9:30. Zaba, zaba. Ciao, io dunque, se l'ho mangiato, tu l'hai mangiato, le cette mangiate, se vuoi c'è pure una vestina di cose, il pollo. No, no, no, questa asciutta non ne ho mangiato. Già. Ho mangiato già. Un pezzo di formaggio sardo, di quello un po' piccantuccio, e un pezzo di melone, e poi un wurstel, basta, non ho mangiato altro. Altri guerrieri, poi dice che state grassetti lì. No! Sì, e cosa vuoi che sia? Per un uomo come me mangiare quella caratteristica. E cosa vuoi che sia? Manco calorie fare su calcio per coino. Ma non ne ho mangiato tanto, una fettina ne ho mangiato. Non ho esagerato. La fetta del melone un po' era granduccia, ma il resto è. Vabbè, la fettina la fai tu, il formaggio sarà mezzo chilo, no? Già va bene. No, se no te la prendo, non c'è problema. Quando lo mangio molto pure lì. No, no, l'ho mangiato così, volante, perché dal computer stavo, diciamo, sboccocellando. Ma cara, vabbè, Antonio, come ci tu, ci deve essere, anzi. Sì, la mattina ho altro piatto. Gaffa, gaffa. Sempre in fuga, sì, anzi. Gaffa, devo entrare. Ma da sottavela un poco di vano. Tu fai lavorare un birri? Sa. Ho detto che fai lavorare un birri, che stai sempre bevendo e pipì. Sa, ma così si dovrebbe fare. Quanto te ne bevi al giorno di acqua? Sì, siamo già arrivati meno di metà bottiglia, siamo già arrivati ad adesso. Da 2 litri? Vabbè. Ma in una giornata, io ne bevo di più. No, adesso. Ma io ne berrò, penso, un litro e mezzo al giorno. Chiaro. E pure io ne bevo molta di acqua. Che i rini hanno bisogno di fare. Cioè, in una certa maniera, hanno bisogno d'acqua. I reni lavorano, filtrano. Ma non bisogna sempre di un pochettino di purificarli, soprattutto quando sei molto sudato. Poi io addirittura la bevo fuori dal frigo, non è che faccio molti complimenti. Non la bevo fredda fredda. No, io no. Ma che anche l'inverno me lo metto in frigo io. Infatti mia moglie si incazza. Se la vado a trovare a fare che fa male. Io sono abituato così, anche a casa di mamma era così. Nessuno le beva qua a temperatura ambiente, tutti freschi. Che anche io ti sto dicendo, mi piace così, mi piace. Generalmente, però non è sempre che io se la metto in frigo, capito? Lo carico la mattina prima di andare a lavorare e controllo se c'è l'acqua, perché se no mi tocca averla calda e non cambiarsi. E lo carico. Metto 4-5 bottiglie di da 2 litri e via. Gaffa. No, io sono, è normale. Il importante che non sia potente, altrimenti non mi piace. Mamma mia, io anche il furgone, sempre bella fresca, me l'ha preso dai frigoriferi. Me la metto il furgone, bella fresca, tanto non dura molto. Dura, credo, tipo su di un giro di 2 ore, d'estate non ce n'è più. Scappa. No, io, vabbè, però anche se... anche d'estate, se è un pochettino, non molto fresca, tocca bermela per forza. Sono molto caldo, perché lo richiede tutto. No, io stavo facendo il tiro al poker. D'estate sì, ma d'inverno non più di tanto. Passo la maglietta, me lo do un bel po' di acqua. Fai gaffa. È a ber l'acqua, non il vino, Eia. Stavo parlando con Marco, che ha tirato perché gli ha preso il capo della PlayStation. Mia moglie. Noia, sempre. Se non fa quello che vi dice, lo pulisce così. Beh, certo. Beh, altrimenti non fa le cose che deve fare. Invece ne è un cavo, perché non fai quello. Non è bigli. Tu già ci tiene poco a queste cose. Io. Ma non lo può sempre avventare tu, no? A fare vinta lui, no? Bisogna anche un po'. Altrimenti fa casino nella cameretta, butta tutti i giochi in terra, il vaso, tutte queste cose qua, ma poi non le raccoglie. E allora quando pulisce la cameretta, che fa tutte le cose tutte in ordine, perché mia moglie ne stufa, le raccoglie sempre le cose sue. Ha ragione. Ok. Che si dice di bello? Siamo tutti in occhi. E voi che si dica? Siamo stracchi dalla settimana che... Dammi, da domani comincia la prima serata, che comincia la festa qua. Oddio, la festa la veloce. Ma ci andiamo? Non so, vediamo un po'. Che è di bello quest'anno? Il cabaret, musica, di tutto. Aspetta! Fa la mossa. Cappa. Andiamo. Allora bisogna scendersi. Poi gara. Bella radio lui. Quando la metti è sempre una bomboletta. Vabbè, c'è anche la batteria un po' scarica. Una bomboletta, è una bomba. Una bellissima radio comunque, anche è un pochettino grande, però c'è un pochettino vecchiotta, però è una buonissima radio. Ma del computer sta parlando. Entrano. Ma come ti arrivo con come non ti abbassare, certo? Va. Vedi, guarda. Io sono sempre forte, sei qua. Sei quasi a fondo scala. Qua magari attenuato cambia un pochino, ma cioè il 9.25 mi ha passato il buro, Praticamente da qualche scatto ci vai a fondo scala. Calma. E ora dove sono? Che provo che è tutto tirato. Goddo. Cazzo, non ce ne più si mettere adesso. Pierino, che tu fai? Ma, Luca, riprendi. Niente, non riprendi da lì. Calma, via. E che faceva poco? Si, già lo sai, già. Ah, fatto. Pagava, via. Ma ancora ci parlava che ci faceva entrare nel canale. Io che facciamo perdere, va. No, non voglio prendere nessun argomento. Ma perché l'altro giorno ho fatto un break e lui se n'è andato. E poi era l'ascolto e ha detto, ehi, quando è entrato quello lì non l'ho fatto entrare e me ne sono andato. Capito? Te l'ho sentito io. Già. Guarda, proprio noi no, non capisco cosa è questa cosa. Una cosa voglio dire, che proprio noi non gli abbiamo mai fatto nulla. Vabbè dai, chiudiamo il discorso, là che è meglio. No, ma infatti non capisco perché sia comprato così come no. Vabbè, comunque. Io sono di quelli vecchi, capito? Sto all'ascolto, ho ascoltato tutto, ma non fa nulla, non c'è problema. Chiappa. Cosa vuoi fare? Se la gente gira di camusci. Sono come vogliono, no. È un discorso che a me non mi interessa. Cioè, ognuno fa come vuole. Però quello che dovevo dire adesso l'ho detto. Noi proprio non gli abbiamo fatto nulla. Vabbè dai, facciamo perdere. Ma vabbè, l'ho detto perché. Che mi dà un po' di fastidio che sia comprato così. Non c'è problema. Luca, va. Allora, io sono fantasia del baracchino. Facendo la fantasia, non mi attira più come prima. Beh, poi proprio di certe cose mi danno fastidio. Non capisco cosa gli abbia fatto io. Vabbè, ma comunque non mi interessa. Perché poi lui se si è voluto comportare così e si comporti così non c'è problema. Però deve sapere che l'ho sentito quello che ha detto, capito? Lo so quello che ha detto. No, non so come stai parlando già. Sto facendo che c'erano le cuffie del poker. E non ho seguito più di tanto. Di cosa stai parlando? Allora, praticamente io un giorno che c'era Falchetto, Pomponi e tutti quelli lì, sono entrato, ho fatto un break e tutti quanti mi hanno salutato, tranne lui, e poi lui ha detto che doveva chiudere. Poi quando è entrata un'altra persona gli ha detto, beh, chi è entrato? Gli ha leccato tutti quelli che sono entrati, è entrata un'altra persona, ma io me ne sono andato. Non so cosa dire già. Non so che dire. Capito. Mi ci ha detto, d'accordo, mo faremo un cazzo. Sembra un bambino, sembriamo. No, poi non è più come prima, non mi attira più, non mi attira come me, baracchino, adesso un po' meno, ma ce l'ho qua perché è vicino, se non c'è neanche entrato la prima, già che entro poco, lo sai, no? È che qua vicino, se non se fosse entrato più in là, cacchio avrei acceso. Se io dico una cosa, ti dico. A me non me ne frega niente, cioè, arrivato a questo punto di che c'è gente che fa un po' di te, No, non mi interessava più, io voglio parlare con la gente, ti voglio parlare, e chi vuole, chi la pensa come me, fa come me, o se non lo so. Io faccio la radio mia come voglio io, chi mi vuole ascoltare mi ascolta, chi non mi vuole ascoltare se ne può andare anche, se ne può fare dove vuole lui. E io faccio la mia radio, penso di fare una buona radio, non me ne frega più nulla di nessuno. La faccio come posso, come meglio posso, quello è il mio punto di vista e è finito il discorso. Certo, ti devi passare la gara quando vedi persone non li fai niente, si comportano così, l'ho sempre scherzato con lui e cose, non ho mai fatto nulla che lo potesse offendere né niente, non so perché si sia comportato così, me lo dovrò spiegare se me lo può spiegare, se non lo stesso. Comunque diciamo che io sono amico di tutti, solo che le persone non mi fanno capire la stessa cosa, quindi quando poi mi accorgo che le persone sono duble fasce, allora cambio anche io. Certo, io rimango nella mia etica, quello non vuol cambiare a nessuno. Io parlo con le persone che devo parlare, io penso di fare la radio che devo fare la più perfetta, cioè da più che ci riesco a fare la più perfetta possibile, con la massima educazione e con tutte quelle cose che ci vogliono. Quindi non lo so, io ritornando all'altro discorso, penso di non averle fatto niente né io né un'altra persona. Non so questi comportamenti, ma comunque a me non mi interessa, è meglio così, mi sono arrivato a un certo punto. Perché se uno non ti fa niente, tu ti comporti così, non va bene, là. Poi, diciamo che cosa ha voluto che io fosse l'ascolto, capito? L'ho sentito proprio con le mie orecchie, non me l'hanno riferito né nulla, proprio sentito con le mie orecchie quello che ha detto. Più 2 fa 4, quindi, ma comunque non c'è problema, io resterò qua. Naturalmente Luca, tutti quelli che hai, per me sono amici, non c'è nessun problema. Ciao, io ho già, è una figlia, purtroppo noi lo sappiamo oramai com'è la situazione, io non è che penso di essere stato molto chiaro, dai, non voglio aggiungere altre cose, io faccio la mia cosa finché ci riesco, quando non c'è più nessuno bisogno di tutto e basta, altro non posso fare. Io faccio la mia radio come l'ho sempre fatta e come cercherò sempre di farla e basta. Vabbè, come tutti, farò la mia, tu farai la tua per farla la sua, naturalmente, non c'è problema. Lupi? E non mi viene d'accordo, se la sedia anche la teglio per un altro. È un casino, ragazzi. È un casino, può fare quello che vuole, ma non, io sono amico di tutti. Perciò non so che dire, io sono amico di tutti, cioè sono amico di tutti già. Come ovviamente piace anche a te, sei amico di tutti, però ci sono questi come si dice, questi scontri, diciamo, che non sono belli, a me non, sinceramente, come si chiama mio padre. Lo so, io non sono abituato a queste cose, ma così sono amico di tutti, però metto un asterisco, tutti quelli che mi rispettano, se poi qualcuno manca di rispetto o si comporta in una maniera che non si deve comportare, allora non è più amico. È quello che io sono amico con chi mi rispetta, sono amico e do veramente il cuore per gli amici. L'amicizia la ritengo una cosa con la A maiuscola. Come fa? Non deve essere così, già. Ovviamente con chi merita l'amicizia che si merita. Ciao, cacchio. E poi uno praticamente quando è con te fa la bella faccia, poi va a pararti alle spalle e poi e dice tutti i colori, ma naturalmente per io non lo ritengo amico, parlo in generale. Da certo, normale. Preferisco che lo mi dica, se coglione, se ha ragione, dico sì, ha ragione, mi sono comportato male, ecco. Però non che me lo dica da ridare i padri, perché io non sopporto assolutissimamente uno che ti parla alle spalle, quello lì è proprio un vigliacco, è come se ti desse una pugnalata. Ah, quante volte, dillo pure tu a Luca, quando c'è qualche cosa che non è andata bene tra di noi, tra uditi in faccia, ovvero non è vero, digli se sbagliendi, cioè, dillo pure tu. Ma è fatti così, non è che... Se sono in colpa, dico colpa mia, cioè non è che... può succedere di tutto, uno magari non si rende conto, fa una cosa, se te ne rende conto magari sbaglia. Se un amico ti richiama, ti dice guarda che sto sbagliando, cazzo sei giusto, io dico sì, hai ragione, sto sbagliando sì. Però ha sempre detto una certa maniera, io sto sbagliando, cosa si dice? Cioè, sempre così. Ma non in diversa maniera, lui mi si gira della spalla, così. Vabbè, uno c'ha il suo modo di fare, di comportarsi, a me certe cose non... certe cose le accetto e certe altre no. Proprio cioè io ho questa abitudine che se una persona non mi va proprio la escludo, non la cerco più, eccetera eccetera. Faccio così, mi comporto in questa maniera. Se una persona si comporta male con me, proprio li pongo la gode, non ne voglio più sapere. Forse io sono fatto. Non ho fatto in quella maniera là, quando una persona mi gira le barbattoli, preferisco di non dirmi più niente, di non rivolgermi la parola in certe occasioni e via. Io preferisco, inutile che stai a parlare, a discutere cose, quando poi le parole volano in aria. Invece la elimini proprio la persona, non è più a che fare. E quindi è l'unico modo, capito? Io ne ho provato tante, perdonato, fatto, poi si comporta nella stessa maniera, quindi non... perché le persone che non merita lo meritano, se non uno non lo merita la mia amicizia, vuol dire che cosa c'è? Scusa un attimo. C'è una connessione al computer. Stai facendo il computer. C'è la polizia. La frammentazione? No. File temporanee. Capito, mi hanno associato un attimino perché se c'è Marco che sta facendo sangue al naso. È andato correndo, non l'ha pigliato adesso. Vedete, con lo square ci muove, che il rumore a me, mamma mia. Che rumore sta facendo? non ce l'ha il, come si chiama? Ma il come lo faccio? l'ho avuto, ti ripeto, mi divertivo anche perché avevo imparato a usarlo bene, eccetera, eccetera. Mi divertivo, c'avevo un po' di frequenze, di cose, dove andavo, mi trovavo con altra gente, cose, ma ti sto dicendo che andava molto bene, solo che c'avevo sempre questa corlacchia, mi facevo i bigliettini, mi facevo articoli sul giornale, mi davate tutti i rigurori, cioè c'era la gula bila, ma andai in macchina, avessi la modulente. Scusa, marito si è impiccato. Come arriva? Vabbè, tu vedi, non sei di quelli che da, che insomma che si attacca, ecco, insomma magari ci mette la pietra sopra e ne fai a meno, ma ci siamo a me, proprio io mi sono abitato ora, sì. Sì, ci mette la pietra sopra, ne ho cantato quattro anch'io. Mi ha detto tutti i colori una volta perché mi ha puntato la pila alla macchina di notte, gli ho detto di mettersi nel culo la pila brutta, gli ho detto tutti i colori. Ma non sono tipo di quelli, diciamo che noi parliamo da tutti i dieci già al muro aperto, ma cioè non c'è, io non ho rimodulato, capito? Come esce, vabbè qua diciamo ho rispettato persone che conosco, ecco, conosco l'abito, però ho rispettato quello sì, però se fosse una qua in zona, perché non mi è capitato una persona qua in zona che mi conoscono, ma che poi stava un po' distante da me e che trovo nell'interno stereo, ma se il busso mai io, ma agitimi. Sono sempre scocciature, no? Però lì mi hanno messo tutti i biglietti dei portoni, ha fatto l'articolo sul giornale, te lo ricordi, sì. Di cosa gli ho detto? Selezionare una categoria, selezionare il B classico, il B annunci, case auto. L'hanno cambiato, io non lo so perché ne sono più entrato. Prima c'era il B, tu metti il B e c'era scritto tutte le categorie, auto, moto, case, giochi, di tutto. Tu andavi su radio TV e poi andavi su cosa? Su CB. Ti davo un'altra pagina dove c'era scritto CB e radioamatori. Andavi lì. Adesso non lo so, non l'ho più aperto. Allora, CB Malattia umida da stato modificato Colt 142 Venezia. Mi darò giù. Se dai vostro. Allora, quando ha modificato ai vate con finale originale, vate regolabile da potenziometro dello square, si scheda ecco Colt regolabile da dal. È nuovo, eh. È nuovo. Ma se compravo subito, no? C'è anche il numero. Ma c'è scritto che compra subito oppure all'asta? C'è scritto Marattino 84, l'ho messo io. Beh, guarda, siamo da Rimediano, di un 34. Non sa spendere molto. Non ce l'ho fede. E ce l'ha rotto. È trovato io, te lo ricordo, il primo scambio che abbiamo fatto noi era quello lì. Ma la tua era un Inter, c'era la mia visa quello. Sempre andando sta. Un'altra volta più usato. Non sta più entrando infatti, Maria Luisa. Infatti. Sono finito il messaggio. Vediamo, poi ci mando un messaggio, aspetta. Piedi, lo vado. State parlando di gente che sono sbaglio, che è stupata così. E io. Il mio vicino, che mi promette con tutto, prima la radio, poi stiamo usando la radio, poco, e la stavano disturbando lo stesso l'altro giorno che non ci siamo. L'altro giorno la radio staccata gli davano, gli disturbavano la televisione. Poi i miei gatti che lo disturbavano, mi hanno l'altro, cazzo mio gatto non mi hanno perché è morto. Poi il mio telefono gli dava fastidio, il campanello suonava il campanello di casa e dice che stavo suonando il campanello a loro. Adesso sono arrivati un paio di giorni fa, addirittura a dire cazzo che io lo disturbo, il computer mio gli disturba il suo. Cazzo di no. Anche non gli dà più un muro. No, la mamma ha detto di fare davvero una sacca male, la faria ha rischiato, ma ha rischiato del rosso, eh. Allora, fa cazzo di tutta la ciappucata del culo di quel camarada, l'ho trovato nei giri, devo bruciare, l'ho trovato. Ma come ci vai, cerca che devi uscire? No, hanno vissuto tutta la loro vita così, no, disturbato, c'erano solo i cervelli, ho cazzo vorrebbero recuperati, con... Sono più o meno, non più umano. Ma sono i battesi che toccano il muro? Allora, a cascasino è dei suoi mesi, ma non è giusto, ma non è il cazzo che fare, e cane su, i cinghi, i suoi baroni non fanno delle palle tutta la vita. Io, sempre da morroni a vanno, io. No, per i cani l'ho già sistemata la questione, soltanto che non mi va, perché poi magari ci passano gli altri di mezzo, che già le cani se non l'avrei sistemato per bene, perché per quelli l'avrei fatto sicuramente, ma è perché rispetto agli altri. Se no la lì che i cani me l'avevo fatto qualche io, l'ero anche immediatamente puro. Ma è più canetto di cani che fa. Ma per carità, cazzo, guarda. Io adesso gli ho detto, anche con un muro, cazzo, che ci recita pure, in alto la mano ne aveva tirato completamente di tra i piedi, aveva trovato la mano in bocca e ne aveva trattato di tra i piedi, guarda. Anche me ne ha fatto esattamente di cazzo al filo, è fuggito. arrivati al dunque, siamo arrivati al punto che se vuole gli spiriti gliene faccio, le volte io la ero che lo posso farci dritto dritto, perché adesso parlo, adesso sono determinato a fare di tutti i manieri. io sempre una lotta in quel posto, ecco. Mamma, per carità, come si fa a vivere così sopra in tensione, boh. Mia mamma mi deve lasciare in pace, non mi deve cercare, non sto cercando a nessuno, io no. Non guardo neanche nessuno in faccia, io guardo dentro il portone, non mi interessa un cazzo di nessuno. Guardo dentro casa mia, a me non me la fa, ma si può neppure ammazzare. Ah beh, e tanto se tutta la gente abbia, boh, per carità. Cioè, vivere in un posto del genere deve essere una cosa indescrivibile. Poi appena che posso, è nato dai, non che cazzo che manco, manco voglio vedere, manco più la via. Di bello c'è che c'è la cantina bella lì, una bella, un bel ripostito. Ehi, come è vero che faccio anche di meglio. Se per fare di meglio te lo auguro. Beh, io tentavo di fare di meglio, il mio meglio per fare di meglio. Ma anche se te ne vai in una casa piccolina, ecco, è sempre meglio che stare lì, cioè. E io me ne vado in una casa piccolina. Non certo, ma ricca, ma comunque. Detto di andarmene da qua. Il mio più vicino che si può dire vicino, però mi deve stare a minimo un chilometro di distanza. L'ho già capito, casa in campagna. Me dai un ripostiglio di avvicini. No, né più, né mai più, né palazzo, no, Puglia, e neanche le tue città. Se sono quelle sede, il mio vicino non devo vedere, neanche col binocolo forse. Magari. E poi campagna ce lo puoi fare, basta che ti fai una di quelle casette tipo quella di Muratturi in alluminio e cosa, e ce l'hai già. Ehi, quello, le cose che sono fatte di comunità, che si possono fare per le baracca e dai figli tutto, e muratura altro che. Ma che muratura si può fare, certo. Non è quello il problema, adesso il problema è di raccimolare il dinero su quanto passano per andarmene. È certo che devi essere esausto proprio. Guarda, non è che sono, cioè io mi faccio i fatti miei, cazzo, però me ne vengono a cercarmi, bro. Pensavo che io entro in quel caso, il figlio mi lascia a casa, esco la mattina di casa e mi entro la sera, cioè, e vengono a cercarmi. E non è malettiere, pure basta, ragazzi, mamma mia, poi non si può dormire la domenica, guarda, se ti faccio sentire una registrazione per capire mi dirai, cazzo, c'hai ragione. Ma già ti credo, non è che, già ti credo. C'era un periodo che anche qua, io perché sono sempre per il quieto vivere, se non so che si vuole attrappare a tutti i duri, dopo un pranzo e questo e quella, sempre travaglia di 31 casi, questo qui è un impresario, quando non c'ha lavoro per dire, per cosa si fa lavori a casa sua, capito? Ma cantiere stava diventando, se l'avrò fatta che è una meraviglia, però cazzo, almeno le ore dopo un pranzo che ho riposo, che faccio quell'oretta di riposo perché poi devo rientrare al lavoro e non devo rientrare qui in bando, cazzo, manco quell'ora lì mi fai drummi. E non ho da pochi mesi, se ne è aggiunto un altro di rottura le palle pure, Ehi, glielo stavo dicendo Antonio. E che cosa? Che è entrato un altro sciolino. No. Ah, non è lui. No, cioè adesso è venuto qua un ragazzo a abitare da un signore in ponte praticamente. E c'è proprio davanti alla mia finestra. La notte fino a, sta anche fino alla una di notte. scusa. Sei rimotto. Allora, cosa è rimotto? L'officina ambulava. Sì, tutto sei occhi. Dice sopporta, e che cazzo sopporta? Non lo so. Lo so, cioè almeno nelle ore in cui non riposa, che vuole stare tranquillo, devi essere un po'. Noi ma chi si ritegna non ne va nessuno, non ne va e ti vivere disciplina di ballarsi. Luca. Briaia, bel casino. Non sono disponibili di scaravare, ma se date il materiale. Cazzo. Ora sta venendo come si chiama? Colpi da guadagno rotto. Non c'ha, tutti i pezzi disponibili sono stati testati per vedere che funziona. Ci sono, non sono disponibili, c'è la madre, ma se il datore, batteria, tastiera, scocca, display, cioè praticamente io prendi un computer e non venuta. Ma sono solo non è che la fa, non ho messo la cifra neanche. Ma guarda il mio già. Sai se mi lascia la madre, perché lui sei miserico. Beh, magari qualcuno serve la scocca esterna e magari servendo quello. Ma non posso, ma mi sono anche la madre già, perché non le porte non siano bruciate. E magari qualcun altro serve un altro pezzo e riesciamo a venderlo. E io ce ne sono occasioni. Allora ho l'Asus che te lo vendo io. Ma io lo trovo voi. Ah, sta scherzando, lo vuoi il mio, l'ho comprato a Natale. Natale dell'anno scorso l'ho comprato. Ma ce ne sono tanti, già. Vedi, notebook, Toshiba, sapete, M40 non funzionano, di quelli piccoli. 80 euro. E ogni volta, a cavolo culo. No. Perché c'è... Ma fa di rame, ne sono fatti, e vendono anche la mondezza, però ci sono cose che ti possono servire. Vabbè, no, papà è piccolino, vedi, quello non mi serve niente. Però ti bucca, vediamo un po' questo qua, 230 euro. Tu conta, c'ha un processore Intel Celeron, 101.4 GHz. C'ha 600 MB di RAM, ma quanti di RAM qua? Ma 640 MB, sì. Dico una cosa, ma una cosa, vai e ti rubi a un negozio nuovo per quel tanto lì, cosa fai con la mondezza? Cioè, un computer vuole essere comprato nuovo, boh, se uno vuole fare una cosa come si deve. Se poi uno ne vuole un'altra seconda mano ci si accontenta, però devi pagare poco pure. A chi? Se supera il valore, cioè lo bigliato lo può fare già direttamente nuovo. Sì, l'ho trovato già. Però ci vuole il telefono, è rimasto qua. Tu ci vedi, sapete, PSA a 60 è uguale al mio. Sì, se funziona rubilo subito, perché è un signor computer già, è un signor computer. Ma c'è una cosa, già una cosa contattata questo qua, tu che puoi comprare, io non c'è neanche il coso, poi ci mettiamo d'accordo, se vuoi ti do le mie, vediamo un po'. Quindi boh, affannacquia. Grazie, tu ce la fai a vedere un po' cosa ti dice, se è buono come cosa, perché è uguale al mio. Allora io non quello metto da parte, 110 euro vuole. Alla di email, no, io non ne ho più di carta, no, non ne ho più di carta le poste. E non le sto più facendo, quindi l'ho tolta. Quando ti stavo dicendo, contattalo, basta contattarlo, mandare l'email. C'è scritto contatta utente e lo contatti. E gli chiedi quello che devi chiedere e ti risponde, non è che sia difficile. Te mando un messaggio. avanti, Piorpa. Io me la so chiudere, vai. Ciao a tutti, ce la riascoltiamo le prossime. Buonanotte a todos, todos, todos. Ciao Piri. Sentiamo, buonanotte anche a te. Avanti, Anto. Ciao. Avanti, Luca. Ciao Piero, buonanotte, alla prossima. Fate una domanda e arrivo subito. Dicendo già, se per pochissimo prezzo va bene, ma se supera i 200 euro conviene comprarlo nuovo, il computer. Io perlomeno l'ho messo così. A me il computer che me l'ha venduto mi ha detto che il computer dopo 5 anni va cambiato, quindi va sempre preso nuovo. Se uno dopo 5 anni lo vende per cambiarlo, chi fa l'affare non è chi lo compra a seconda mano, ma chi si compra quello nuovo. Sì, perché se lo trovi, se lo trovi per una cavolata va bene, va anche bene, ma se costa troppo no, non va più bene, no. Sì, ma poi dopo 5 anni il computer non serve più. Allora già va, c'è un computer che hanno anche 10 anni, già vanno, però che sono un po' più innovativo lo compri nuovo. Ma comincia a darti problemi, me l'ha detto il tecnico a me. Dopo 5 anni il computer ti dà già problemi. Vabbè, l'ho detto un po' così, no, ma sarà a posto. No, già, per lui dice così, ma già durante giustamente devi fare le cose giuste. Devi farle. Perché ci sono più cose innovative, capito, dopo 5 anni. Allora io lo sai come l'ho comprato il computer anche questa volta? Ho fatto assemblare le parti, mi ho messo poi di una scheda come la volevo io, il masterizzatore quanto volevo io, c'era di tanti tipi, lui me l'ha fatto vedere con tanti prezzi e con tante cose, qualità di per di roba. E io ho scelto quella, diciamo, la più buona, l'ho fatto assemblare, tutto lì, il computer è nuovo per quello, perché il mio è stato preso, il coso vuoto, il case vuoto, e assemblato così. Ce l'ha messo giù la cosa, ma è meglio, cioè, meglio comprare di nuovo quelle cose lì, secondo me, poi se la c'è poco brillo, a pochissimo prezzo, ma lo prendo lo stesso, ci siamo ripiati, però l'importante è che non superi le funzioni, un certo prezzo, altrimenti non ne vale la pena. Tanto io non le ho prese nuove, io ho preso tutto il case nuovo, i pezzi tutti nuovi, perché la fabbrica non lo fa così, la fabbrica per me assembla. E poi ti dice memoria serio, memoria questo, memoria l'altro, secondo quella che ci mette, ti fa pagare come tutte le cose, no? Noi abbiamo preso il case nuovo, ne abbiamo inserito quello che volevo io e va più che bene. Il mio è un 2006, altro è un 2006, quello grande. Ciao, quello portatile è bello lo stesso. Sì, già fanno bene, già. Anche il tuo c'è, cioè. Anche il tuo è nuovo, nuovo ancora. Sì, tutti e due sono abbastanza nuovi, non c'hanno poco tempo, però adesso quello grande lo sto usando manuale, ci carica un po' di roba, lento, mamma mia che... Prima era velocissimo una scheggia, come toccavi la cosa girava subito pagina. Adesso è lento a caricare, a fare, perché ci ha messo mille porcherie, mille fotografie, ho preso, l'ho tutto riformattato, ho fatto riformattare tutto quanto, andava benissimo, dopo un po' di tempo ci rimette, ho detto scusa, la roba tua, scaricatela nei dischetti qua, non lasciare il computer, intanto lo uso sempre io, e chi te l'ha detto, lo entro anche io. Ma lo mette nella penne, lo mette nei dischi, non si chiede il computer così, perché poi si rallenta, addirittura secondo cosa di guida può anche, a mia sorella gli è successo, non so come cazzo abbia fatto, si è scomparso tutto. Invece no, però ci sono carte di sole penetrate, esistono un sacco di cose. Sono anche le penetrate, le carte che sono molto molto gita, addirittura 12, 10, non me lo ricordo bene. Anche compro una di quelle ce l'ho tutto. Ce l'ho da 4, comprata per metterci in musica, infatti anche qua me la devo dare, me la devo fare scaricare la musica che c'è lui nella penna. Non c'è problema, così che si fa, dentro, ma si può andare via, se il computer lascia sempre funzionare, non si mettono mai lo fuoco dentro, già l'altro giorno sono messo le filmate che sono adirato, ma adesso ho fatto togliere gli filmatini, perché non voglio io mettere. Perché con l'utilità sorella non funziona? L'ha messo lì, non so per che cosa, che funziona. Invece che avete 3 di compianzi, 4. Prego. Cattabbe di computer. Centrale meccanografica. Non voglio, uno lì e uno a parte. Tuo padre non ne ha 2. Capo, sì. E allora, vedi, io so più di te. Sì, quell'altro sono 4. Sono in fondo due, sono due, non li usiamo. Ma perché sono anche vecchi, ce ne sono 6. Carola, è vero, ci sono anche quelli giù. E vabbè, ci sono sempre funzionati. Se è quello che l'avevo provato il monitor funzionava. Vabbè, quello che ho io quello piccolo. E a me va bene. Ti trovi bene, lo vedi bene, tutto qua. Ma lo credo via. Tanto ti ho detto che stavi lacrimando agli occhi ultimamente. Non è che stai sforzando il computer, no? Non è che attivo, perché il problemino, tanto. E devi far dei colati. Certo, quello lì non ti dà neanche, non ti dà gli occhi, perché addirittura è a legge, cioè c'è quello che si chiama lì. Ma a me già mi si stancavano prima, adesso non più. Prima di essere operato mi si stancava e mi lacrimava anche a me. Chiaro, il mio non è nelle cibi come gli altri, è le lettere. Cioè, nuova generazione, tecnologia nuova. Cappa, cappa. E per i tasti, bene ti trovi? Sì, no, non li uso tranquillamente. No, il fatto che siano piccoli, ecco. No, mi trovo benissimo. Cappa, cappa. Ma già sono bellini, quelli molto costanti. Io l'ho pagato un bel po'. 230, 250, quanto costa? Non c'è grigio, non me lo ricordo, comunque di più di quella chiesa. Già bellino Claude. Luca. Rossetta. Cos'altro? No, Rossetta. Ah, Seven. Seven. Beh, sette, Seven, che cosa vuol dire? Vuol dire Seven. Sì, quello lì. Che pagato. Vabbè, ci puoi mettere qualsiasi programma. No, io come l'ho comprato per pensare, no, è di browser, ne ha 2, ne ha due, c'è anche la concorrenza, c'è la manca forse per l'arma, però io sempre voglio dire. Io come l'ho comprato comincio a pensare, non ha più di quale mi taglio. Pagata. Beh, c'è gente che lo tocca per farlo andare un po' di più. Chiaro. ma non faccia bene così, cosa deve fare? Nulla devo fare. Vabbè. Cioè, quello lì non è che deve fare grandissime cose. Vabbè, tanto per te va bene. Chiaro, meno da devo fare. Girare, scoprire, entrare su Facebook, qualche cosa di musica. Non ha niente in particolare, YouTube, esatto, YouTube e Facebook, no, non è che faccio cose particolarissime. E ci sono dei siti e io e rivendi spaventi. Io non c'entro nemmeno le che stai capendo, siti tipo sale operatori e cose così, gente che si spara, tutte queste cose qua. Ti fa, se non hai fegato ti fa vomitare. Già lo so, già le guardo quelle cose, ma non è che mi interessino molto, cioè. Le guardo o non le guardo? No, a me già mi interessa. Chiaro, a me mi interessa altro. Sarebbe? Altre cose che possono piacermi, no. Non sono mai stato per tutti quanti questi buchi. Cioè, tutti quanti queste cose, no, non mi piace. Capagato. Beh, tanto, io ti saluto. Che sta per avviocarmi, mi stanno lacrimando gli occhi già, te l'avviso. Ci sentiamo, ti auguro buonanotte. Ciao Luca, anche a te, per Paolo se c'è ancora l'ascolto e tutti gli altri amici. Avanti, anch'io di nuovo e poi ti saluto. Ciao, ciao, buonanotte Gianni, dai, ci sentiamo. Avanti Luca, ci sei? Ma dai, buonanotte Gianni, ci sentiamo, guarda. Ciao. Ciao.